Antica luce femminile di Sapienza, Ipazia di Alessandria, di Adriano Petta. Ipazia è sconosciuta ai più, seppur presente nelle opere di molti autori, tra cui Chateaubriand, Voltaire, Proust, Diderot, Leopardi, Monti, Pascal, Calvino. Chi deteneva il potere fece di tutto per far sparire le sue tracce, il suo pensiero. Ma Ipazia fu una donna di tale levatura morale e culturale che questo progetto è fallito e le sue orme sono rimaste impresse nella polvere dei secoli. Ipazia nacque nel 370 d.C. e morì nel 415. Fu l'erede della scuola alessandrina, fu filosofa, matematica, astronoma, antesignana della scienza sperimentale. Era la figlia del matematico Teone, che operava nella biblioteca di Alessandria d'Egitto, la biblioteca Figlia, dove erano custoditi oltre 700.000 volumi. In quella biblioteca c'era il sapere dell'umanità, libri di astronomia, anatomia, filosofia, botanica, matematica, ogni campo dello scibile umano proveniente da tutto il mondo, tradotto nella lingua dei colti dell'epoca, il greco. La biblioteca madre, annessa al Museion, l'antico centro studi prospiciente il porto, era stata bruciata da Giulio Cesare 3 secoli prima, mentre conquistava la città. E allora gli antichi pensarono di spostarne la sede nell'unico luogo sicuro, il Serapeo, il principale tempio pagano di Alessandria. E così la biblioteca Figlia divenne la prima biblioteca dell'umanità, il cui accesso era consentito anche al popolo. E non solo agli studiosi. Sopra la biblioteca, nel tempio vero e proprio, davanti alla statua di Serapis, c'era una colonna di marmo su cui svettava il simbolo dell'accordo fra la ragione e la religione, fra la scienza e le divinità pagane, un mesolabio, uno dei primi strumenti di calcolo nella storia dell'umanità, simile al regolo calcolatore in uso fino a pochi decenni fa. I sacerdoti che officiavano nel tempio si facevano chiamare sacerdoti filosofi. Una volta terminati i loro riti in onore della divinità, scendevano nella biblioteca e si univano a chi studiava per approfondire la conoscenza della matematica, della filosofia, dell'astronomia. Era l'anno 391. Nella biblioteca operavano il matematico Teone e la figlia Ipazia, una bellissima ragazza di 21 anni, a detta del padre dotata di grandi capacità intellettuali e che un giorno lo avrebbe superato. Da 7 secoli Alessandria d'Egitto era il faro della scienza e del sapere del mondo intero. Nella biblioteca di Alessandria era contenuto il sapere universale, vi si confutavano i dogmi e gli assoluti, in una ricerca dura ed emozionante attraverso la relatività delle osservazioni, del ragionamento, di uno studio continuo e scevro da condizionamenti del potere. Ipazia e la sua scuola si eressero ad ultimo baluardo che la ragione opponeva all'avanzata della religione. La libertà di pensiero è quello per cui lei ha combattuto e ha dato la vita, la cui morale, la cui etica era costruita giorno per giorno nel massimo rispetto dell'essere vivente. La più importante comunità scientifica della storia aveva operato là, nel Museion, prima e nella biblioteca Figlia dopo. Lì avevano studiato Archimede, Aristarco di Samo, Ipparco, Euclide, Tolomeo e Maria Lebrea, colei che per prima pose le fondamenta della chimica moderna. E tutti i geni e le genie che hanno gettato le basi del sapere scientifico universale. Aristarco di Samo, secoli prima, aveva ipotizzato per primo che era la Terra a girare attorno al Sole. La sua teoria non ottenne il favore della scuola alessandrina, ma non per questo fu messo al bando o venne bruciato vivo. Nei suoi 700 anni la scuola alessandrina aveva raggiunto vette talmente elevate nel campo scientifico che sarebbe bastato non dare alle fiamme la biblioteca e lasciar vivi e liberi di studiare Ipazia e le sue allieve e i suoi allievi per acquisire 1200 anni in più di progresso. Ma con gli editti di Teodosio, il Grande, editti imposti dal vescovo Ambrogio di Milano, oltre alla soppressione del paganesimo, dei misteri eleusini, delle Olimpiadi, ebbe inizio la cancellazione delle biblioteche, della scienza e di chi la praticava, l'annullamento del libero pensiero, della ricerca scientifica e vennero bruciate le biblioteche di Atene, Pella, Pergamo, Antiochia ed Efeso. Nel 391 d.C., vescovo e patriarca di Alessandria era lo zio di Cirillo, Teofilo. Erano stati appena promulgati gli editti dell'imperatore Teodosio, che mettevano fuori legge il paganesimo. Teofilo sobillò la folla cristiana e, con l'appoggio delle guardie dell'imperatore romano, guidò l'assalto al tempio di Serapis, bruciando tutto: tempio, biblioteca, il sapere dell'umanità. Con un colpo di piccone fece a pezzi la statua della divinità e il mesolabio, simbolo della tolleranza fra la ragione e la religione. Ebbe inizio la caccia a tutti coloro che non erano cristiani. I loro templi, le loro case, i loro riti, la loro cultura cominciarono ad essere bruciati, cancellati. Il nemico numero uno continuava ad essere il libro, il sapere, la conoscenza. Ipazia continuò a studiare, ad insegnare. Assieme ai suoi allievi proseguiva nell'indagine filosofica, nel neoplatonismo, nelle scienze, nella matematica, nell'astronomia. E alla fine della giornata usciva per le strade di Alessandria e insegnava alla gente umile l'uso della ragione. Ipazia era pagana, tra virgolette, ma in realtà non apparteneva a nessuna religione, perché per lei qualunque dogma era un freno alla libera ricerca e poteva rappresentare una gabbia che non permetteva di indagare liberamente sulle origini della vita e sul destino dell'uomo. La sera, quando tornava a casa dopo una giornata di studio e di insegnamento, si metteva a costruire strumenti scientifici per trasferire la teoria nella materia. E fu così che realizzò l'idroscopio, l'aerometro e soprattutto l'astrolabio, lo strumento che precedette il sestante, sfruttando un rozzo progetto di Ipparco. Grazie alla sua rettitudine, a Ipazia si rivolgevano anche politici, magistrati, prefetti imperiali, per avere un parere. Era pronta e dialettica nei discorsi, accorta e politica nelle azioni, così viene descritta. E questa sua natura, oltre che procurarle tanto credito presso il popolo, glielo procurò anche presso i capi di Alessandria, i quali, ogni volta che si prendevano carico delle questioni pubbliche, erano soliti recarsi prima da lei. Era stimata e apprezzata dal prefetto imperiale Oreste, il quale riuscì a ottenere persino delle sovvenzioni da parte dell'imperatore d'Oriente, da cui dipendeva Alessandria, per la sua scuola. Ma le mire espansionistiche del vescovo e patriarca Cirillo videro in questo evento l'ultimo pericolo. Il vescovo si avvaleva di un corpo di guardia di eccezionale ferocia. I monaci parabolani, capitanati da Pietro il Lettore, così chiamato perché leggeva il Vangelo, suo amico e compagno di studi nel monastero della montagna della Nitria per 5 lunghi anni. Cirillo cominciò a predicare nella cattedrale cattolica di Alessandria, il Cesareo, l'antico tempio pagano, additando alla folla cristiana in ogni circostanza possibile quella donna devota alla magia, agli astrolabi e alla musica, tuonando contro Ipazia perché aveva stregato molti ingenui con le sue arti sataniche, compreso il prefetto augustale Oreste. E i fedeli cristiani echeggiarono, urlando che bisognava uccidere la pagana che aveva stregato le folle e lo stesso governatore con i suoi incantesimi. 500 monaci parabolani diedero la caccia a Ipazia finché, come noto, la catturarono e la fecero a pezzi. Questo delitto segnò la fine del paganesimo, il tramonto della scienza e della dignità stessa della donna e la fine della più importante comunità scientifica dell'umanità. Da quel giorno sono trascorsi 1600 anni. I committenti del delitto sono ancora qua. È stato fatto di tutto per cancellare il ricordo della martire pagana, creando addirittura il mito che, invece della pagana Ipazia dedita alla magia, fosse esistita una santa cattolica e cristiana, protettrice della filosofia, Santa Caterina di Alessandria. Ma questo non fu l'unico caso. Stessa cosa avvenne più tardi, nel 1200, quando la Chiesa Cattolica, per esempio, occultò la scomoda figura di Guglielma la Boema, bruciata dall'Inquisizione, inventando di sana pianta la storia della Vergine Guglielma incarnata per redimere le donne. Paradossalmente i e le fedeli di Guglielma, per non avere fastidi, la onoravano sotto le spoglie proprio di quella santa Caterina che in realtà fu Ipazia. I libri di Ipazia e di tutta la scuola alessandrina furono bruciati, con la sola eccezione del suo commento alla Syntaxis. A parte Ierocle, di cui sono rimaste solo due modeste opere di filosofia neoplatonica, e il poeta Pallada, che con i suoi versi cantò l'irreprensibilità dei costumi, l'alto sentire, l'accuratezza e il savio giudicare della filosofa alessandrina, tutti i discepoli della scienziata scomparvero. E di loro, del loro pensiero, delle loro opere, nulla è rimasto. Alcuni riuscirono a emigrare in India, tra cui Paulisa, autore dell'opera astronomica Paulisa Siddhanta, importandovi le ultime scoperte di trigonometria e astronomia. Ci è pervenuta però una parte dell'opera dell'allievo prediletto di Ipazia, Sinesio di Cirene, vescovo di Tolemaide. Dalle sue lettere indirizzate alla maestra, fra le testimonianze più autorevoli, si apprende che Ipazia è stata la madre della scienza moderna. In quanto all'analisi teorica dei problemi di fisica e di astronomia, faceva seguire la sperimentazione pratica. Le testimonianze antiche su Ipazia sono offerte principalmente da quattro storici, Socrate Scolastico, Filostorgio, Sozomeno, tutti contemporanei di Ipazia, e Damascio, ultimo direttore dell'Accademia Platonica di Atene, che scrisse di lei 50 anni dopo il suo massacro. Fra le opere di matematica e astronomia che compose Ipazia, le più importanti furono il commentario all'aritmetica di Diofanto, il commentario alle sezioni coniche da Apollonio Pergeo, il commentario al canone astronomico. Il nome di Ipazia ha attraversato i secoli, raggiungendo le nostre vite. E forse è veramente viva, forse non è solo un ricordo che abbraccia le nostre anime, è come se fosse viva anche fisicamente. Per Ipazia liberare la scienza voleva dire liberare la creatura umana. Le donne che tentarono di studiare, di inserirsi nel mondo della filosofia e della scienza, dovettero combattere su due fronti. Il primo risaliva ai tempi di Platone, che le considerava esseri inferiori per natura, mentre Aristotele sosteneva che la donna era uno scarto della natura, entrambi sono ancora studiati nelle scuole oggi. Il secondo fu il ruolo secondario assegnatole proprio dai padri e fondatori della Chiesa cattolica, Agostino e Giovanni Crisostomo, che affermarono che la donna porta il marchio di Eva e che Dio non le ha concesso il diritto di ricoprire cariche politiche, religiose o intellettuali. Quando composi l'ultimo capitolo del romanzo storico Ipazia, vita e sogni di una scienziata del IV secolo, il cammino era lastricato di gorghi di infernale incandescenza. Mentre scrivevo, piangevo, perché io ero l'allievo perdutamente innamorato della sua maestra, rifiutato perché lei non aveva tempo per dedicarsi all'amore, disperato perché non ero riuscito a proteggere l'ultima voce libera, l'ultima luce femminile di sapienza dell'ellenismo. Fui capace solo di affidare la storia a un papiro, mentre la nuvolaglia che si levava dal Cinerone si dirigeva verso il faro, attraversando la caligine sospesa sul porto preistorico. Poi si apriva, diventava luminosa, cominciava a volteggiare verso il mare aperto, verso gli oceani lontani, verso la purezza dei cieli alti della nostra Ipazia. Adriano Petta, 1° ottobre 2011.